congelare nella storia degli eventi storie di personaggi davvero affascinanti. E a questo proposito, questa mattina mi piace ritornare su una storia che, pensate, è di 60 anni fa. Innanzitutto il nostro ospite, un giornalista, un collega, Alessandro Mazzomagno. Buongiorno Alessandro, benvenuto. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dicevo, una storia che ci porta a 60 anni fa, era l'Olimpiade, i Giochi Olimpici di Helsinki, tra l'altro 15ª edizione, qui siamo alla 30ª, 1952, come dire, basta visualizzare per un attimo quale diverso mondo fosse. Noi siamo in tempi in cui continuiamo a dire che giustamente sono tempi difficili per, e lo dico davvero con il massimo rispetto, perché per molti sono davvero tempi difficili, ma 52 vi dice qualcosa? La Corea, il mondo, la terza guerra mondiale, insomma, erano non sono i soli tempi difficili, sono stati fatti dei grandi, grandi passi in avanti 60 anni. Ma per non andare troppo lontano dalla nostra storia, invece, quella è una storia di vela, di amicizia e di storia con la S maiuscolo. Alessandro Mazzomagno, allora, che storia è? Raccontacela. Storia strana e commovente, devo dire. È la finale di vela, la finale, lo diciamo subito, in cui l'Italia conquistò uno dei suoi pochissimi ori nella vela. L'Italia ha preso 3 ori nella vela, uno alle Olimpiadi del 1936 con un 8 metri, uno con la Sensini nel windsurf nel 2000 e questa medaglia Helsinki 52, scusate, per una coppia leggendaria della vela, Tino Straulino e Nico Rode. Chiunque sappia un pochino di vela sa che Tino Straulino, che poi era anche un ammiraglio della Marina Militare Italiana, è un mito. Tino Straulino è stato uno dei più grandi velisti e uno dei più grandi marinai che ci siano mai stati in Italia. È, per dirla, il comandante del Vespucci che è uscito con il Vespucci alla vela dal canale navigabile di Taranto, un'impresa assolutamente epica. Ebbene, in questa Helsinki, in questa finale olimpica, l'ultima regata era quella decisiva. La finale si svolgeva al meglio delle 7 regate e nell'ultima si ritrovano gli americani in prima posizione e gli italiani stavano dietro, e se gli italiani fossero arrivati prima e gli americani fossero arrivati oltre il terzo posto, l'oro sarebbe andato agli italiani. C'era bisogno di un intervento, di un aiuto. Questo non lo sapevano prima. Ma c'è una cosa strana, cioè la barca italiana e la barca jugoslava era composta da 4 persone che erano originari dello stesso paese, erano cresciuti assieme ed avevano imparato ad andare a vela assieme. Questo paese era Lussin Piccolo. Lussino è una fucina, è stata e ancora una fucina di marinai. Era quest'isola dell'Adriatico che oggi si trova in Croazia, si chiama Lošinj, ma è stata prima veneziana, poi asburgica, poi tra le due guerre è stata italiana. È un'isola dove la vela era come il palio a Siena o come la regata storica a Venezia. I ragazzini imparavano, anziché giocare a pallone, andavano in barca. C'erano numerosissimi cantieri navali che costruivano un tipo particolare di barca che era proprio tipica di Lussino, che si chiamava la Passera, e ogni anno facevano delle regate per vedere quale cantiere costruiva la passera migliore. Quindi immaginatevi un po' voi questo, è un po' come oggi la Nuova Zelanda, dove i ragazzini vanno a scuola in barca a vela, ecco, pane e vela. Lo stesso. Si arriva a questa finale e ci sono queste due barche, la barca italiana e la barca jugoslava, i cui equipaggi sono formati da amici. Ricordiamo, italiani Straulino Rode, jugoslavi Mario Fafangel, Carlo Bassi. Ci sentite anche dai nomi, no? Nomi sono nomi tipici di quelle zone. Bene, parte la regata, l'ultima regata, quella decisiva. La barca jugoslava fa una grande partenza, è in testa, e la barca italiana è dietro, arriva ed è sotto vento, quindi non può passare. A questo punto succede una cosa assolutamente inaudita: la barca jugoslava dà acqua alla barca italiana. Io quando erano ancora vivi, Straulino dei Quattro è stato l'ultimo a morire, è morto nel 2004, mi sono fatto raccontare sia da Straulino sia da Mario Fafangel com'è andata la storia. Hanno dato una versione un po' differente. Fafangel mi ha detto che Straulino gli ha urlato: Mario, vira, vira! E invece Straulino mi ha detto: ci siamo guardati e Mario ha virato. Però rimane il fatto che tutti e due hanno detto: ci siamo aiutati tra lussignani. I lussignani con bandiera jugoslava danno acqua ai lussignani con bandiera italiana, permettono ai lussignani con bandiera italiana di arrivare primi e di vincere la medaglia d'oro. Questi sono anni in cui, anni, Alessandro, in cui come dire, la definizione dei confini in questa parte di mondo così vicina a noi, ma che oggi appare, come dire, richiede davvero anche di rinfrescare la memoria storica. La definizione dei confini era stata fatta ovviamente con le armi, con la guerra, poi con delle trattative estremamente complesse. In quel momento dare acqua dunque alla barca italiana era davvero, come dire, un gesto quasi magico che riportava poi tutto quanto, tutta quella geopolitica all'amicizia di un gruppo di ragazzi. Ah sì, anche pensiamo che un anno dopo, nel 1953, Italia e Jugoslavia stavano per entrare in guerra l'uno contro l'altro, l'Italia schiera l'esercito ai confini e anche la Jugoslavia, quindi la tensione era alle stelle e c'era appunto, si era da poco firmato il trattato di pace nel 1947, c'era stato l'esodo, appunto Straulino e Rode erano due non erano istriani, perché Lussino non fa parte dell'Istria, è un'isola del Quarnero per essere precisa, comunque erano due esuli, mentre Fafangel e Bassi ci avevano scelto per ma forse scelto, in realtà non si sceglieva niente, succedeva. si erano trovati dall'altra parte con un altro passaporto. Grazie Alessandro Marzomagno, una storia raccontata tra l'altro in ormai qualche anno fa nei Leoni di Lissa, uno dei libri appunto realizzati da Alessandro Marzomagno, una storia davvero bellissima qui che ci ha sintetizzato in una chiave olimpica, perché i giochi olimpici sono anche questo, sempre delle grandi storie umane. Ci siamo abituati negli ultimi tempi a vedere fratelli divisi da passaporto, l'altro giorno nella canoa un tedesco, un turco, ci sono casi più famosi nel pallone come fratelli Boateng, insomma ci stiamo abituando a tutto questo, allora erano più rari, a volte le loro storie erano infinitamente più complesse. Grazie Alessandro Marzomagno, tra poco torniamo insieme per parlare di università, tasse universitarie. Chiedo anche a voi e vi chiedo se avete voglia di condividere il vostro pensiero all'800 24 00 24, è giusto imporre dunque di fatto una sanzione indiretta con l'aumento delle tasse universitarie ai fuori corsi? Va nell'interesse dell'organizzazione, delle istituzioni, degli studenti stessi? Ne parliamo tra qualche momento. 24 mattino, estate. Allora, università, ora tutti gli iscritti rischiano i rincari, questo è uno dei titoli che troviamo questa mattina nella rassegna stampa. Oltre ai fuoricorso, anche gli studenti al passo con gli esami potranno subire un aumento dei costi, scrive il Corriere oggi nel suo primo piano. Quindi la penalizzazione per chi non è nei tempi non basta da sola a migliorare i conti degli atenei, ma anche dall'altra parte bravi studenti, tasse congelate. Il tema delle tasse universitarie all'interno della Spending Review, abbiamo detto più volte, che arriva oggi in mattinata, peraltro il primo via libera atteso, anzi il primo via libera all'Aula del Senato al decreto, un tema che non è nuovo e di cui parliamo questa mattina con due, forse tre ospiti, il professor Giuseppe Catalano, innanzitutto professore ordinario di economia pubblica all'Università della Sapienza di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, secco, una prima domanda: serve aumentare le tasse oppure no? E dico serve all'università, non evidentemente ai conti, poi magari ne parliamo. Ma in prima battuta io non vorrei deludere lei e le sue aspettative, ma forse soddisferò quelle degli ascoltatori, dicendo come Shakespeare, tanto rumore per nulla. Okay. Nel senso che in prima battuta le tasse universitarie dell'anno accademico 2012-2013 sono state già fissate da mesi, gli studenti stanno già pagandole in questi giorni quando fanno la propria iscrizione all'università, e quindi non ci sarà nessuna modifica delle tasse universitarie nel prossimo anno accademico, proprio perché tutto è già definito. In seconda battuta, la norma che il Parlamento si accinge a votare oggi offre alcune opportunità alle università di aumentare le tasse, con modalità che poi magari vedremo nel dettaglio, ma non costituisce un obbligo, quindi ciascuna università nella sua singola specificità farà le sue scelte a partire dall'anno accademico 2013-2014. In questo ambito il testo del governo dà delle indicazioni, diciamo, di guida per le scelte eventuali dell'università. Quindi non siamo di fronte a un immediato, stratosferico e importante aumento delle tasse universitarie, quindi credo che questo sia il primo punto che vada ribadito con forza e con chiarezza a tutela della corretta informazione degli ascoltatori. Un punto che va fissato, che è fissato benissimo, rimane la questione però di fondo, la questione di fondo e contro la quale appunto già ci sono state proteste da parte di organizzazioni studentesche, tra l'altro forse ne avremo un rappresentante nei prossimi minuti, è giusto sanzionare attraverso appunto un rincaro delle tasse universitarie chi è fuori corso, professore? Ma anche questa è una domanda, diciamo, che non affronta il problema reale. Il problema reale va raccontato agli ascoltatori in modo molto semplice. Le università possono essere finanziate, come avviene in tutte le parti del mondo, sostanzialmente con due modalità. Una a carico della fiscalità generale, ed è bene ricordare che la fiscalità generale sono le tasse dei contribuenti nella loro interezza, non, diciamo, la fiscalità generale non è manna che cade dal cielo, sono le tasse che pagano i cittadini. In alternativa, o come dicono gli inglesi, in cost sharing, cioè in ripartizione degli oneri, una parte dei costi viene fatta gravare sugli studenti. Perché? E sulle loro famiglie. Per due ragioni: perché chi frequenta l'università ha poi nella vita professionale, come dimostrano, come dire, in maniera molto chiara le statistiche, opportunità lavorative, di status, di benessere superiori a chi non va all'università, e quindi si ritiene che l'università abbia dei benefici importanti per chi la frequenta, e quindi che sia giusto che chi avrà dei benefici importanti da questi studi concorra a pagarne i costi. In secondo luogo è molto importante specificare che la popolazione universitaria è mediamente più ricca della popolazione generale del paese, quindi se noi poniamo l'intero costo dell'università a carico della fiscalità generale, noi facciamo pagare l'università di chi è un po' più ricco a chi è un po' più povero. Io ho scritto di questi temi, ahimè, e purtroppo la cultura del paese non cambia, da 20 anni, e paradossalmente scrissi che il finanziamento a carico dei contribuenti dell'università è una sorta di Robin Hood all'incontrario, cioè i più poveri pagano per i più ricchi. Ecco perché le tasse universitarie sono giuste, sono eque. Naturalmente poi bisogna entrare nel dettaglio, e se lei vuole possiamo farlo, le modalità con cui vengono definite e pagate sono ovviamente importanti e sono diversificate da università a università. Ecco, differenze tra università e università, questo è un tema che riprendiamo tra qualche momento. Saluto intanto però la dottoressa Carmen Aina del Dipartimento Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte, collaboratrice della Voce.info. Proprio sul sito della Voce.info abbiamo letto ieri parecchi dati che riguardano gli studi fatti da lei e alcuni suoi colleghi. Buongiorno intanto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Sui numeri, perché poi è opportuno, le chiedo allora di darci un quadro di questo fenomeno e le anticipo già la domanda di compararlo nella sua spiegazione a quello che poi è il contesto internazionale, voglio dire fuori corso. Ci sono numeri che, come dire, in un primo momento appaiono davvero impressionanti, oltre il 50%. Certo, il fenomeno del fuoricorsismo in Italia si è consolidato a partire dal 69, quando c'è stata un po' la liberalizzazione degli accessi all'università, che veniva riconosciuto quindi a tutti i diplomati a prescindere dal diploma, e si è nel tempo attestato intorno a circa il 40% degli iscritti sono attualmente oltre la durata legale. Per quanto riguarda poi la quota dei laureati, in seguito dell'introduzione della recente riforma nota come 3+2, si è un pochettino ridotto l'entità dei laureati fuori corso, passando da un 73% del 2002 a circa un 53%. Questo grazie anche sia alla riduzione dei corsi di laurea sia dai 4-5 anni ai 3, ma anche grazie a dei passaggi dal vecchio ordinamento al nuovo. Tutto sommato questi numeri sono ancora piuttosto rilevanti e, come segnalava giustamente il professor Catalano, il fatto che l'università italiana sia prevalentemente finanziata con risorse pubbliche, la tendenza a procrastinare gli studi oltre la durata legale necessariamente comporta degli sprechi di risorse pubbliche, una inadeguata, inefficiente allocazione di queste risorse. Quindi, come abbiamo dimostrato anche in altri studi, a una riduzione dei rendimenti privati dell'investimento in istruzione terziaria, quindi aumentando costi monetari diretti e indiretti, riduzione dei salari all'ingresso, rischio di non svolgere poi un'attività lavorativa che sia in linea con la laurea, quindi che si possa svolgere un lavoro per il quale il titolo conseguito, quindi la laurea, non è necessario. Sono tutti aspetti che vanno a contribuire all'interesse e all'importanza di contrastare questa tendenza. Ecco, dottoressa Inna, a questo proposito, quando è che la laurea di fatto, dopo quanti anni appunto di vita fuori corso, perde il senso la laurea stessa? Perché evidentemente immagino sia la stessa cosa se, non so, un ingegnere si presenta a 25 piuttosto che a 40 anni. Allora, nello studio che noi abbiamo condotto era sui laureati vecchio ordinamento con dati Alma Laurea analizzati quindi a 1, 3, 5 anni. E l'aspetto interessante era appunto, al di là dei diversi rendimenti nel mercato in base alla facoltà, e questo è inevitabile, le facoltà scientifiche hanno rendimenti più elevati, quello che abbiamo trovato di interessante è che la penalità salariale era consistente e perdurava nel tempo, quindi non è soltanto una questione all'ingresso si è penalizzati, ma perdura anche a 3-5 anni, quindi nella fase iniziale. Ma l'aspetto più interessante era che la penalizzazione riconosciuta dal mercato scattava dopo i 2 anni, quasi come se il mercato sia consapevole di quello che è il problema del fuoricorsismo. Quindi c'è una tolleranza del primo anno, non ci si fa quasi caso, dopodiché si entra. I primi 2 anni come se riconoscesse anche l'organizzazione stessa della didattica, che non sempre consente di laurearsi nei tempi. Certo, perché poi ci sono tutta una serie di aspetti. Torniamo su questo, vorrei dar voce subito, mentre abbiamo fatto le 8:43 minuti, ai nostri ascoltatori. Silvia da Roma, buongiorno. Buongiorno, grazie per questa disponibilità. Grazie a lei, ci dica. Senta, niente, io volevo parlare un po' come mamma, perché ho comunque 3 figli, e un po' anche come ex studente, perché sono laureata in ingegneria. La laurea è ancora per i suoi figli un obiettivo? Visto dalla mamma? Spero di sì, ancora sono. No, intendiamoci, per lei, nella proiezione dei suoi figli nel mondo del lavoro, sì, cioè prima la laurea, come è stato per una generazione, ok. Sì, anche perché per me è voluto dire molto, quindi certo. Spero che anche loro andranno all'università. Ora, l'idea di pagare, cioè di far pagare più tasse agli studenti fuori corso, secondo me non è sbagliata di principio. E il motivo è sostanzialmente, appunto, cioè quello che anche dicevano le altre persone che sono intervenute in trasmissione. Però pensavo, cioè la mia idea è che probabilmente andrebbe anche fatta una distinzione tra facoltà e facoltà, perché ci sono alcune facoltà obiettivamente più difficili. Assolutamente d'accordo, lo dice uno che ha fatto scienze politiche, quindi che ha sempre visto con orrore, nel senso di rispetto, i amici, i colleghi magari impegnati in ingegneria fisica eccetera. Parliamo anche di questo aspetto. Grazie Silvia. Filippo da Varese, prego, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io sono uno studente fuori corso un po' attempato, nel senso che ho scelto di laurearmi per la seconda volta e sono anche un lavoratore, e questo per me è una passione, cioè lo studio certo. Per me è solo esclusivamente una passione. Il problema qual è, secondo me, è che si tende sempre a punire i meno meritevoli anziché loggiare e dare qualcosa di più a quelli che meritano effettivamente. D'accordo. Ho tanti ragazzi che meritano però non esiste una dote per merito, indipendentemente dal reddito, per esempio. Lei dice passare da una modalità, appunto, dalla sanzione al sostegno. Grazie Filippo, grazie Filippo da Varese e anche Filippo invece da Pisa per un terzo intervento. Buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, io sono anch'io un fuoricorso di ingegneria, purtroppo ecco. Siamo tutti noi. Vi ho appena citati, vede, io dico, mi sono consapevole che non è uno scherzo chiudere nei tempi. Poi magari vediamo anche con i professionisti dell'università perché questo accade. Prego Filippo. Le dico che io ho avuto esperienza di in campo europeo di vedere molti amici che invece loro si laureano in tempo e velocemente. Io sono d'accordo con una, diciamo, penalizzazione, una sanzione per il ritardo, però sarei molto più d'accordo se vi fosse la capacità di arrivare in tempo, perché qui stiamo penalizzando il percorso senza togliere le buche dalle strade, perché... Bellissima espressione la sua, direi che l'abbiamo tra l'altro con una precisione, come dire, casca letteralmente sulla viabilità, che sentiamo insieme e poi torniamo ai nostri ospiti. Grazie. 24 mattino, estate. Professor Catalano, le buche lungo il percorso che Filippo da Pisa segnalava appunto con un'immagine molto chiara, quali sono? Sono davvero più grandi o più insidiose rispetto al sistema universitario europeo? In alcuni casi sì, dobbiamo dire che questo è un punto cruciale. Innanzitutto però dobbiamo chiarire che l'espressione fuoricorso è un'espressione oramai obsoleta. Tant'è che la stessa norma di cui stiamo parlando non parla di studenti fuori corso, ma di studenti iscritti oltre la durata normale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri studi, dopo la riforma del 3+2, non hanno più una durata standard, ma hanno una durata normale e hanno la possibilità di offrire agli studenti lavoratori e comunque a chi ritenesse di affrontare gli studi con modalità diverse anche dei percorsi più personalizzati. Esiste la nuova figura dello studente part-time, cioè dello studente che può dichiarare di avere un percorso più lungo perché lavora, perché ha altri interessi, e quindi in primo luogo bisogna dire che bisogna offrire agli studenti un servizio più diversificato rispetto alle loro esigenze. C'è molta differenza nelle università italiane a proposito di servizi, allora, di calendari di esami, di informazione, di trasparenza. Io non la frequento da un po', ma insomma sento, avverto che spesso per esempio gli studenti lamentano la mancanza di una capacità di programmazione proprio sull'arco temporale dell'anno. È assolutamente vero e su questo punto gli studenti hanno ragione da vendere. Io ho insegnato per nomadismo personale in 3 università diverse come professore di ruolo e devo dire che le evidenti differenze ci sono, ma in questo dobbiamo sottolineare come il meccanismo tasse servizi è un meccanismo virtuoso, cioè lì dove gli studenti sono chiamati a pagare più tasse sono anche più esigenti, più seri, più attenti al servizio che ricevono, e questo è un altro aspetto che va sottolineato come un elemento positivo. Gli studenti hanno ragione, devono essere messi in condizione di terminare gli studi nel periodo normale. Questa è una piccola rivoluzione copernicana nella mente dei professori, delle università e degli studenti stessi, e questo si fa in 2 parti del problema. Il primo, un orientamento serio. La maggior parte delle università italiane non ha dato attuazione a una previsione importante della legge del 3+2, che è quella di mettere gli studenti all'inizio in condizioni di essere consapevoli con dei test orientativi, non tesi ad escludere dall'iscrizione, a essere messi in condizione di conoscere le proprie capacità e quindi di orientarsi in modo adeguato. Molti fuoricorso sono, come dire, fuoricorso iniziali, cioè iniziano in ritardo, non decollano mai negli studi e questo è uno spreco di risorse, come diceva la collega prima, non solo per il paese ma anche per loro stessi, perché li dirotta su esperienze, aspettative che non potranno essere soddisfatte. E poi c'è l'efficienza nella serietà degli studi, nella puntualità dei professori a lezione, nel rigore della programmazione degli esami. E quindi insomma un'efficienza che riguarda sì gli studenti, fuori corso meno, ma riguarda anche appunto i professionisti dell'università, i professori, le strutture. Ancora abbiamo un ascoltatore prima di tornare dalla dottoressa Ina. Abbiamo Carlo da Bologna, buongiorno. Salve, buongiorno. Prego, ci dica. Io mi sono laureato in sociologia e essendo una materia umanitaria col vecchio ordinamento, finito in corso in 4 anni. Ho un ricordo bellissimo del periodo universitario, ma quello che volevo dire, io sono anche nato in Turchia, per cui ho una realtà di sistemi di studio a livello internazionale con amici che sono stati in America, eccetera, eccetera. Ampia. È molto ampia, nel senso che i nostri fuoricorsisti, se nel mercato italiano sono ben accolti comunque con un anno o due di ritardo sui tempi di laurea, a me dispiace dover dire che queste regole decadono nel mercato internazionale, nel senso che bisogna accettare il fatto che se un ingegnere nucleare ci deve mettere 5 anni, non ce ne può mettere 8, c'è qualche cosa che non va. Quindi io sono per stimolare i nostri giovani a rimboccarsi le maniche, a fare i sacrifici, a guadagnarsi le borse di studio e a darsi da fare, perché è l'unica maniera se vogliamo cambiare qualcosa di questo paese. Lo status quo deve cambiare. Grazie a Carlo, grazie di essere stato con noi, chiarissimo il suo pensiero. Dicevo, dottoressa Ina, quello che effettivamente in questi giorni, almeno sto sullo spunto naturalmente delle notizie, delle spending review eccetera, non è tanto l'idea di punire il fuoricorsista. Personalmente, se uno ha voglia di stare 20 anni all'università, che fa sempre bene, ma è il valore anche della laurea, è il fatto di non dare un'immagine che poi sia falsificata. Devo dire, lo dico appunto pubblicamente, anche in alcune recenti esperienze di lavoro, di reportage nelle università italiane, sono stato un po' afflitto da questa immagine di migliaia di studenti e studentesse di bellissime facoltà umanistiche che però arrivano alla fine del loro percorso universitario veramente nudi alla meta, letteralmente. Allora, Carmena Ina. In effetti il fenomeno di laurearsi oltre la durata legale è abbastanza complesso. È chiaro che questo intervento di rivedere al rialzo le tasse, che attualmente invece vengono ridotte per chi va oltre la durata legale, che può dare un incentivo, è una prima misura per disincentivare questo percorso. Ma come diversi interventi, così come quello dello stesso professor Catalano, segnalano che non si può demandare soltanto a questa misura la capacità di contrastare questo fenomeno. Bisogna intervenire su tutte le determinanti che vanno a concorrere a questo fenomeno. Quindi bisogna aumentare il diritto allo studio in modo tale che gli studenti meritevoli non debbano magari lavorare per sostenere gli studi e quindi essere nella condizione, anche se come studenti part-time, di non poter frequentare, perché non tutti hanno corsi, tutte le università hanno corsi serali, quindi questo può essere un ulteriore deterrente. Unitamente poi al fatto che spesso il mercato del lavoro può condizionare il percorso. Diversi studi dimostrano, tra cui uno anche con dei colleghi Daic e Casalone, proprio come gli studenti, ad esempio delle materie umanistiche, avendo meno opportunità nel mercato del lavoro, ritardino gli studi perché preferiscono poi vendersi, diciamo così, mi consenta questo termine, con una valutazione più elevata, perché sono consapevoli di non avere opportunità del lavoro, mentre si accelera il percorso quando si conosce una maggiore opportunità nel mercato del lavoro. E poi cioè mi sta dicendo che a fronte delle difficoltà, che appunto diciamo della perdita di valore complessivo, dell'impatto della laurea, che comunque è evidente negli ultimi anni, addirittura la reazione è rallentare? Questo anche a livello internazionale è stato dimostrato da diversi studi, che si adegua il comportamento in base anche alle prospettive del mercato del lavoro. Quando il mercato del lavoro è più recettivo si accelera quindi il percorso, quando invece ci sono meno opportunità, e questo è dimostrato anche a livello territoriale in Italia, quindi ad esempio nelle aree del sud, i tempi anche della durata sono più lunghi perché le opportunità sono più basse. Poi non bisogna ovviamente, se vogliamo fare un confronto internazionale, escludere anche l'aspetto dell'organizzazione della didattica e degli accessi, le regole di accesso agli anni successivi. In Italia dobbiamo effettivamente rivedere tutto il sistema, non solo della tassazione ma anche dell'organizzazione, per porre realmente gli studenti nella condizione di laurearsi in tempo. Ora ci si può iscrivere ad esempio al secondo anno senza aver dato nessun esame. Questo non è possibile in Inghilterra, dove bisogna superare tutti gli esami per essere ammessi all'anno successivo. Se si fallisce qualche esame c'è consentito un'altra sola opportunità per rifarlo. Se non si supera bisogna ripetere completamente l'anno. È chiaro che in un contesto del genere lo studente è forzato a superare gli esami per accedere all'anno successivo. In un contesto come il nostro, dove molti studenti si iscrivono senza avere appunto magari un adeguato orientamento, senza aver fatto una scelta consapevole, un sistema sistema universitario come il nostro, che non è differenziato, cioè soltanto una tutta la formazione terziaria che è demandata all'università, senza diversificare tra percorsi più professionalizzanti e quelli magari un po' più corposi, rivedere la didattica in maniera tale che i carichi siano in linea con la possibilità effettiva di concludere il percorso nei tempi. Quindi le tasse è soltanto un piccolo tassello. Certo, le tasse, su questo siamo assolutamente tutti d'accordo. Prendo spunto in conclusione di nuovo dall'attualità. Oggi vi ho citato più volte il titolo sull'ottava medaglia azzurra, Campriani il cecchino gentile, ingegnere Niccolò Campriani, 24 anni, fiorentino. Lui dice: sono andato a studiare negli Stati Uniti perché mi hanno permesso di conciliare lo studio allo sport. Per carità, qui stiamo parlando di un caso diciamo eccezionale, l'eccellenza, la medaglia olimpica, però interessante che questo atleta abbia raccontato nelle interviste del dopo, appunto del dopo gara, di come il suo viaggio di formazione l'abbia portato negli Stati Uniti, dove anche le attività extracurricolari storicamente non sono considerate dei problemi, ma anzi delle ricchezze da aggiungere. Io ringrazio Giuseppe Catalano, ringrazio Carmen Aina, i nostri ascoltatori, Peter Bescapè in regia questa mattina e Franco Piantanida. Noi ci risentiamo domattina a partire dalle 7:20 circa. Buona giornata a tutti.